La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, mercoledì 26 di febbraio, 16.35, 32 secondi, dopo le due trasmissioni che abbiamo dedicato obbligatoriamente la fiducia al governo Renzi. Oggi Renzi, primo giorno, giro per l'Italia, è andato a Treviso in una scuola, poi alla Hedge Farm, che è un posto dove ci sono start-up tecnologiche, e ha fatto un altro annuncio dicendo possibile abbattimento del 30% dell'IRAP. Allora, dopo due giorni in cui impazziamo sulle cifre di questi annunci, io ricordo a tutti che avevamo capito che poi la diminuzione a doppia cifra del cuneo fiscale era solo di 10 miliardi in tutto, possibile abbattimento dell'IRAP. Ricordo a chi ci ascolta, l'IRAP pagato da privati sono 24 miliardi, poi ce ne sono 10 di partita di giro tra pubblico e pubblico, del settore pubblico appunto, ma quello privato è 24 miliardi, quindi un 30% in meno di IRAP, magari la Madonna, come si suol dire, perché sarebbero 7,2 miliardi in meno su 24. Però certo, i conti con i 10 miliardi in tutto tra meno IRPEF e meno cuneo fiscale, chiarito ieri dal governo, continuano a non tornare, le coperture non ci sono note, e quindi speriamo che presto da questi buoni annunci, perché in teoria si tratta di diminuzione delle imposte, non di aumenti, si passi a capire davvero come funziona e con quali coperture. Per questo abbiamo deciso da oggi di riprendere il nostro ascolto di storie vere dell'Italia che se la passa male, dei tantissimi che ci scrivono. Continuate a farlo, perché poi vi chiamiamo in trasmissione a dirci la vostra storia, che è la maniera migliore per spiegare alla politica e al nuovo governo che queste sono le storie con cui per milioni di italiani bisogna confrontarsi davvero, ed è a quello che bisogna pensare su come cambiare marcia. E ne approfitto anche oggi, da una parte, per dare solidarietà ai tassisti di Milano e alla famiglia del tassista ucciso per strada a Milano, che è un automobilista, l'ha ucciso, e ad abbracciare il suicida del giorno, il suicida nei boschi veneti, anche lui, perché la crisi lo aveva messo nell'angolo. Ecco, so che è molto complicato ogni giorno, così spesso da parte mia, ricordarvi queste storie, però credo che sia giusto farlo. E allora, tra le tante lettere che ci sono arrivate, quindi comunque chiamateci al 800 24 00 24 se volete aggiungere qualche vostra richiesta particolare al governo Renzi di fronte alle imprese italiane che stanno male. Inciso: avete visto meno 2,4 consumi nel 2013 sul quotidiano di oggi, 19.000 esercizi commerciali in meno. Vi ricordo solo che il dato ufficiale di crescita della Gran Bretagna, del conservatore Cameron, che si pagano molte meno tasse di noi, è crescita del 2013 più 1,9%, ultimo trimestre del 2013 crescita annualizzata del 2,7%, cifre che a noi sembrano chiaramente siderali con queste tasse e restrizione del credito a famiglie e imprese che ci tocca affrontare. Ecco, allora, l'ospite di oggi si chiama Rino. Rino, diciamo anche il cognome intanto. Buon pomeriggio Rino, per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Cognome decida lei se dirlo, però Craveri, non ci sono problemi. Craveri, benissimo. È un imprenditore, ci ha scritto da Piacenza, e il titolo della lettera, quando l'ho visto, mi ha immediatamente invogliato. Io tento di leggerle tutte, ma ancora di più, perché era fine della storia ma con un punto interrogativo, quindi lasciava aperta una possibilità se certo avviene qualcosa. Allora Rino, ci racconti, sapendo che il tempo è breve, che tipo di imprenditore sei, in che settore insiste la tua impresa e i suoi problemi? Allora, il nostro problema più grosso è che noi lavoriamo in subappalto per le ditte, per le imprese che costruiscono apparati di impianti di acquedotti e depurazioni per la pubblica amministrazione. Quindi il nostro fatturato è al 100% su ricevute bancarie o rimesse dirette a 120 giorni, fine mese, eccetera, eccetera, eccetera. E il problema nasce appunto da qui, perché mentre i nostri concorrenti tedeschi hanno il pagamento a 30 giorni, quindi supponiamo una fatturazione di 10.000 euro al mese, a fine mese il cliente non paga, loro bloccano la fornitura e sono esposti di 10.000 euro. Noi abbiamo 120 giorni a fine mese rimessa diretta, continuiamo a fornire al cliente, quando il cliente dovrebbe iniziare a pagare la nostra esposizione è di 60.000 euro. Se il cliente per caso non paga, noi siamo già morti, già in partenza, perché non abbiamo armi per difenderci. Abbiamo l'avvocato, ci mancherebbe, sono molto bravi, ma incomincia a scrivere la prima lettera, la seconda, la terza, inizia una causa. Abbiamo una causa a Roma di 2 anni e il cliente non si è nemmeno presentato all'udienza, quindi proprio menefreghismo più assoluto. Tanto loro sono forti, loro hanno la forza di andare avanti, noi non potremmo farlo. Quindi già in questo caso noi abbiamo un handicap notevole. Noi non abbiamo la cassa perché lavoriamo solo con ricevute bancarie, quindi ecco, mentre il negoziante alla sera apre la cassa, quel poco, quel tanto che c'è sono i contanti del suo guadagno, noi abbiamo alla sera abbiamo ricevute bancarie rimesse dirette. Quindi questo è già il primo grosso handicap che abbiamo. Adesso Renzi ha proposto lo sblocco dei pagamenti dalla pubblica amministrazione alle società che hanno lavorato per la pubblica amministrazione. Io chiederei di applicare una piccola clausola: lo Stato dà i soldi alle imprese a patto che le imprese paghino i loro fornitori, perché se l'impresa non prende i soldi e non paga, sempre il bilancio a zero. Ma noi, siccome purtroppo dobbiamo emettere la fattura, la nostra fattura appena emessa fa scattare un meccanismo perverso: dobbiamo pagare anticipatamente l'IVA anche se non la prendiamo, le tasse, i dipendenti, i contributi e tutto quanto, i soldi non li vediamo. Perché lo Stato invece si autotutela per concedere le agevolazioni delle ristrutturazioni, vuole la fattura pagata con bonifico su un apposito modulo? Perché non facciamo scattare anche noi la fattura quietanzata? Quando il cliente ci ha pagato, pagheremo con i nostri soldi l'IVA e tutto quanto. Tra l'altro anche gli anticipi del 100% rispetto a quello che dovremo produrre per l'anno prossimo. Ecco, questi sono già... Quindi chiariamo bene, in realtà siccome appunto costruite apparecchiature per la fornitura di chi vince gli appalti pubblici, esatto, il vostro problema non è direttamente quello con lo Stato, è con, no, i privati. No, perché chi vince gli appalti normalmente sono quelle grosse società che hanno degli uffici di progettazione, di ufficio gare, ufficio eccetera eccetera, ma non hanno la struttura fisica per, certo, costruire un grosso impianto. Si avvalgono della nostra collaborazione, chi fa l'apparecchiatura elettrica, chi fa la parte idraulica, chi fa la parte simile, eccetera eccetera. Quindi il problema nasce semplicemente da lì. Loro sono sempre coperti perché non li prendono, non li danno, loro sono sempre bilancio zero. Siete invece voi che finite nei guai. La domanda che ti faccio, siccome è un'impresa che va avanti da diversi decenni, 35 anni. Esatto, il problema è diventato intollerabile con i ritardati pagamenti pubblici a chi ha vinto l'appalto in questi ultimi 3 anni di crisi, o è un problema quello del ritardato pagamento a chi lavora sotto, tra privati, rispetto al privato che ha preso l'appalto, che preesisteva? Cioè c'è un problema, i grandi gruppi ne approfittano rispetto ai fornitori più piccoli. Siamo onesti, ci sono delle condizioni causate appunto da questi problemi, però molti ne approfittano. Ad esempio, noi abbiamo avuto un cliente a Milano che dalla sera alla mattina ha cambiato una virgola dall'intestazione della sua ditta, mantenendo gli stessi uffici, gli stessi numeri di telefono, tutto quanto, la SOA, quindi tutte le agevolazioni per poter lavorare per i comuni e per il pubblico. Dalla sera alla mattina si è messo sul pulito, quindi ha eliminato tutti i suoi debiti. Noi non potevamo far nulla perché il direttore generale è diventato nella nuova società amministratore unico, l'amministratore è diventato direttore tecnico, la società è nuova, non c'entra niente con quella precedente, ha una sequenzialità bella pulita dei lavori e non gli si può nemmeno chiedere il fallimento perché hanno un ufficio con due sedie, un tavolo e un computer, e quindi non abbiamo nemmeno la possibilità di chiedere il fallimento. Ho chiesto di poter dare la nostra fattura alla Guardia di Finanza, non si può, non ha nessun significato, quindi quelli sono soldi persi perché c'è gente che ne approfitta anche in questo caso. E io vorrei fare un appunto: potremmo fare una ricerca di mercato, vedere quali sono le piccole ditte come le nostre che hanno costituito una forma di SRL, perché noi siamo nati artigiani, certo, 30 anni fa, ma per paura o per protezione, perché sapendo di fare lavori grossi e sapendo che se non fossimo pagati, cioè non avessimo ricevuto i nostri soldi, ci avrebbero portato via la casa che ci siamo costruiti quando eravamo ragazzi a 20 anni, allora abbiamo costituito una società. Ma mi chiedo qual è la differenza tra un artigiano che ha 4 dipendenti e un ex artigiano che ha 4 dipendenti ma che ha costituito un SRL. Uno, poverino, è un artigiano e va protetto e quindi anche in caso di fallimento è privilegiato. L'altro, che è uguale identico, ha la stessa conformità, tutto quanto, ma ha una forma societaria diversa, è parificato alla Fiat, anche se siccome è un SRL, se non viene pagato è lo stesso, tanto vabbè, è chirografario, se ci sono delle briciole magari le prende. Sono questi i problemi. Allora, io la interrompo qui perché abbiamo il 60 secondi di informazione stradale. Dico chiaro a chi ci ascolta, sì, questa è la radio di Confindustria, però io da anni nella crisi, per tutte le lettere che riceviamo di piccoli imprenditori, microimprenditori che non vengono pagati da privati, grandi gruppi, sottolineo, penso che davvero sia necessario non solo risolvere nel più breve tempo possibile il pagamento della pubblica amministrazione dei debiti non onorati alle imprese, e vi faccio notare che c'è qualcuno che sta barando anche sul loro ammontare. La Banca d'Italia ci ha detto che erano 90 miliardi, il Tesoro ci dice che erano 50, 22 li hanno pagati, adesso dice con 30 mettiamo a posto tutto. Come è possibile che tra Tesoro e Banca d'Italia ci sia una differenza di ben 40 miliardi nella stima dei debiti? Però detto questo, c'è un problema enorme, bisogna fare qualche cosa di prescrittivo perché i grandi privati non approfittino allo stesso modo sui loro fornitori piccoli, ed è un problema che le grandi associazioni di impresa, Confindustria per prima, dovrebbe secondo me impugnare. Qui in Asso Lombarda hanno preso l'impegno da pochi mesi di fare una cosa, in Gran Bretagna c'è una cosa che si chiama Prompt Payment Code tra privati, e fa emergere, fa controllare il rispetto dei tempi nel pagamento tra privati. Io sono convinto che è una forma elementare di civiltà anche farlo tra privati, non solo tra pubblico e privati, perché altrimenti il grande ne approfitta, e imprese come quella di Rino, state sentendo che cosa pone la crisi, lui va incontro, lui a esporsi, chi ha vinto l'aspalto no, e lui a doverne rispondere pur essendo una ditta artigiana ed evoluta. E questa è una follia. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua in diretta, 16:48 minuti 10 secondi. Rapide telefonate di ascoltatori. Iniziamo con Gerardo che ci chiama da Roma. Prego Gerardo. Sì, buonasera, niente, io volevo apportare diciamo un'ulteriore testimonianza al problema dei mancati pagamenti che sollevava l'ospite. Sì. In sostanza noi siamo una piccola azienda che produciamo nel campo prefabbricati, e se non che succede che un cliente non paga, un altro cliente non paga, per cui di bello, da un giorno all'altro tu ti trovi fuori di 300-400 mila euro perché le rimbe non vengono rispettate. La banca comincia a chiederti il rientro, tu cominci a fare lettere di avvocate contro lettere di avvocate, cause, intanto passano i giorni, passano i mesi, finché tu sei con l'acqua alla gola e devi chiudere. Certo. Perché la banca ti chiude il rubinetto, non certo. Tu vai in banca, noi siamo andati in banca con quest'anno con 4 contratti per un totale di quasi 2 milioni di euro, già firmati, da realizzare, tutto contratto firmato con prodotti già da realizzare, dalla banca abbiamo girato le 7 chiese. Non si è trovata una banca che ci faccia una finanza di 50.000 euro. Non è che stiamo chiedendo. No, lo so, questa purtroppo è la condizione generale. Molti ascoltatori intervengono segnalando problemi analoghi. C'è chi segnala la proposta di legge del Movimento 5 Stelle per il pagamento dell'IVA sulle fatture quietanzate. C'è chi, come Claudio, grazie Claudio da Genova, ricorda una cosa che io avevo dimenticato. In Francia per l'IVA, settore opere pubbliche, il subfornitore, come nel caso quindi dell'impresa di Rino Cravedi, può chiedere il pagamento direttamente allo Stato. Ecco, questa è un'altra misura su cui riflettere, per esempio. Grazie Claudio per avercela ricordata. E poi invece professionisti, ingegneri, architetti che dicono guardate che poi alla fine di questa catena spesso ci sono poi le partite IVA che vengono ancora poi sotto, perché sono chiaramente i fornitori di coloro che, come nel caso dell'impresa di Rino Cravedi, sono sotto all'impresa che ha vinto l'appalto. Sentiamo come la pensa Giorgio che ci chiama da Belluno. Prego Giorgio. Ma io penso che la soluzione sarebbe abbastanza facile. A me per esempio basterebbe che ci fosse una legge che mi permettesse, che dicesse che il bene che io ho installato rimane di mia proprietà finché non hanno finito di pagarmelo. Se non me lo pagano posso andarmelo a prendere e glielo porto via, ma così anche con le piastrelle del bagno, io dico anche piccole cose. Ma un'operazione di questo tipo, se rimane e continua a rimanere di mia proprietà, che sono l'installatore, e posso andarmela a prendere, sarebbe già un altro mondo sicuramente. Che dice Rino di questa osservazione di Giorgio da Belluno? Osservazione esatta, però un mio carissimo amico ha fatto la stessa cosa su un impianto elettrico, rischiava di essere denunciato perché non poteva togliere una cabina che aveva fatto, perché avrebbe danneggiato la produzione dell'azienda. Io posso dire di avere delle apparecchiature imballate ancora su bancali in Sardegna, la ditta è in amministrazione, non posso andare a ritirare il mio materiale, che non come le mattonelle che sono state incollate contro un muro, c'è un bancale da poter ritirare, rischio la denuncia per furto perché il cliente, certo, ha firmato la bolla ed il materiale è il suo. Il mio materiale verrà acquisito dalla ditta che entrerà, recupererà questa impresa, troverà un'apparecchiatura per 2 lire e noi andremo a finire nel pentolone del fallimento fra 5-6 anni. Quando è. Tra l'altro la nostra fattura, fin quando non ci sarà la vidimazione del tribunale, che è finita tutta la storia, ce l'abbiamo ancora in carico come IVA e come certo, utili. Certo. Senta, ma nelle misure che erano state annunciate, qui stiamo parlando governo Monti, quindi Passera ministro all'epoca dello sviluppo economico, nelle misure che erano state annunciate c'era la facoltà, non mi ricordo se era per appalti e lavori sopra una certa soglia o meno, che lo Stato pagasse direttamente il subappaltatore. Quella facoltà poi alla fine è stata introdotta nell'ordinamento oppure no, Rino? Ma c'era anche la proposta di pagamento a 30 giorni, se ti ricordi. No, questa è una direttiva europea alla quale in teoria noi come paese abbiamo aderito, ci mancherebbe altro. No, guarda, noi da 40 anni che tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con le nostre forze, perché da noi non è mai arrivato un euro. Quando il governo stanzia tot milioni di euro per le imprese, quando partono da Roma hanno degli indirizzi di vie e di numeri ben precisi. A noi non arriva mai una lira, perché se siamo in 3 perché dovevamo essere in 4, se siamo in 4 perché dobbiamo essere in 2, ma a noi non è mai arrivato una lira, mai. Nel rapporto con le banche come si è messo nel caso vostro? Nel rapporto con le banche ti dico l'ultima. Allora, quando riceviamo una ricevuta bancaria respinta, il giorno dopo arriva la lettera della banca con una scritta non in italiano, con un errore in italiano, perché dice proposta unilaterale. Di solito le proposte si discutono. La proposta unilaterale dice: vista la vostra criticità, vi aumenteremo il punto di tasso di sconto di un punto, di 2 punti di tasso. Ecco, tanto per essere chiari. Senti un po', tra le tante cose, tu conoscevi un altro imprenditore che si chiamava Renzo Lasparini. Si è buttato un po' il 7 di gennaio, ecco. L'ha ritrovato una settimana fa. Io non vorrei fare quella fine. Non vorrei farla perché alla mia età potrei anche portare il mio cervello al pascolo sugli alpeggi della mia Valdossola, ma cosa lasceremo ai nostri giovani, ai nostri nipoti? Cosa ci lasciamo? Il deserto? Perché c'è un altro problema, ma qui dovremmo parlare per 3 ore, l'occupazione dei giovani. Adesso vogliono pensare a soluzioni, a agevolazioni, eccetera, ma quando io ho molto lavoro da fare, le assunzioni le faccio a prescindere dalle agevolazioni. Se ho un bravo dipendente lo prendo a prescindere dalle agevolazioni. Se non ho nulla da fare, come adesso il lavoro manca, possono anche regalarmelo un dipendente, non agevolarmelo. Se me lo regalano non so cosa fargli fare, non mi interessa, quindi devono ripartire a lasciar lavorare le piccole aziende come noi, perché noi siamo strutturati a lavorare, ce l'abbiamo nel DNA, solo che ci devono lasciare lavorare, dobbiamo pagare le tasse come abbiamo sempre fatto, tutto regolare. Ma questo, la discussione che stiamo facendo adesso, la stessa lettera che ti ho mandato, l'abbiamo mandata 19 anni fa al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, e da 20 anni non è cambiato assolutamente nulla, perché anche allora c'erano questi problemi uguali, identici. Allora, un ascoltatore ci segnala che sulla quella clausola che di cui ti avevo chiesto, che era stata introdotta nel nostro ordinamento, era stata vantata dal Ministro Passera, il nostro ascoltatore dice no, la norma è diventata vigente, deve prevederlo però esplicitamente il bando di gara, quindi per i subfornitori bisogna stare con gli occhi aperti e spalancati e chiedere che sia esplicitamente previsto. Naturalmente voi intervenite però dopo che il bando è stato emanato, però in teoria l'ordinamento prevede questa facoltà. A proposito di quello che dicevi poi di agevolazioni vere, il governo in Spagna, la Spagna sta crescendo attualmente a un ritmo 3 volte superiore a nostro. Certo, voi direte, sì, noi cresciamo dello 0,1 in un trimestre, loro crescono dello 0,3, però è tre volte il tasso, quindi in un anno si sente la differenza. Le nuove misure adottate dal governo Rajoy, comunicate stamattina, sono queste. Hanno innalzato la soglia totale di esenzione dell'IRPEF, era già a 11.000 euro, a 12.000 euro. Ricordo a chi ci ascolta che la soglia di esenzione totale dell'IRPEF in Italia sono solo 8.000 euro, quindi loro la portano del 50% superiore alla nostra. E hanno abbattuto tutto ciò che si deve in termini di contributi per un nuovo assunto a soli 100 euro al mese, ripeto, 100 euro al mese per i primi due anni. Temo che questo sia l'ordine di grandezza se si vuole ripartire. Naturalmente per questo ci vogliono le coperture, aspetteremo che il governo ci faccia sapere qualche cosa. Quanti lavorano nella Rino, nella tua impresa? Ormai siamo in pochi perché causa la crisi non possiamo mantenere una certa attività. Volevo aggiungere un'altra chicca. Sì. L'accesso al credito. Il mio predecessore ha chiesto dei prestiti perché doveva fare dei grossi lavori, ma noi l'accesso al credito dovremmo utilizzarlo solo per fare investimenti. Ad esempio, io allargo la mia attività, ho bisogno di un'apparecchiatura, un macchinario, un capannone più grande, quindi devo farmi prestare dei soldi per fare un investimento a medio e lungo termine. Oggi si chiede l'accesso al credito per pagare le tasse. Esatto. Ma questa è una bestemmia. Lo so. Rino, io ti devo ringraziare e salutare. Siamo arrivati alla fine. Continuate con Radio 24.